Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. You see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. E buonasera, questa volta per davvero, buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto della nuova trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Ho fatto prima un pochino di disastro con la replica, il sottofondo, ma adesso eccoci che ci siamo. Se state sentendo la mia voce, siamo in diretta, è il 3 maggio, sono le 15:36 e quindi vuol dire che tutto va bene. Siete, dicevo, all'ascolto di questa nuova trasmissione che si chiama Poi You It, Lettere Contrarie, e che nasce in occasione della difficoltà di realizzare il quinto Festival di Letteratura Sociale di Firenze. Per chi non sapesse, ricordo che sono ormai 5 anni che a maggio viene organizzata negli spazi autogestiti della Polveriera, nel chiostro di Santa Pollonia, una 4 giorni tutta dedicata alla letteratura, e più precisamente a quella letteratura che è portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Ogni anno, fin dalla prima edizione del festival, Radio Wombat è stata lì presente con un suo banchino, con il suo salotto radiofonico letterario, e ha trasmesso in diretta e poi archiviato come podcast sul sito della radio tutti gli eventi che vi si svolgevano. Quest'anno, per via ovviamente del coronavirus, non c'è ancora certezza su quale sarà la forma in cui il festival potrà tenersi. C'è comunque l'intenzione di dare vita a una manifestazione reale, voglio dire, materiale, mettendo cioè fisicamente assieme le persone in una serie di eventi in cui coinvolgere autori, editori, artisti, riviste e partecipanti, ovviamente, anche se da noi i confini sono spesso labili. Non c'è tuttavia ancora certezza di quando questo potrà avvenire, se a giugno, se durante o dopo l'estate. E per questo motivo, intanto, il festival ha preso avvio qui, su queste frequenze, su Radio Wombat, in un programma che è quello che state ascoltando e che va in onda ogni domenica e lo farà perlomeno fino a fine giugno. L'intenzione che ci guida, che ci ispira, è la stessa di sempre, cioè quella di dare un esito a quella pulsione critica e solidaristica che sentiamo, è quella convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e che debba essere liberamente condivisa e sempre accessibile a tutti. Quindi, in queste puntate, presenteremo pubblicazioni di vario tipo e dialogheremo con scrittori, saggisti, poeti, lettori e quant'altro. Abbiamo iniziato domenica scorsa con la presentazione de La natura dell'economia, femminismo, economia politica, ecologia, un libro recentemente pubblicato per Derive a Prodi, e ne abbiamo parlato con le curatrici Sara Pierallini e Federica Tomasello. Nella settimana prossima, cioè quella che inizia domani, pubblicheremo e diffonderemo anche un programma degli eventi letterari che si svolgeranno alla radio fra maggio e giugno e che sarà disponibile sulle pagine di Wombat e della Polveriera Spazio Comune, oltre che sui maledetti social. A proposito di social, è stato diffuso da poco sulla pagina Facebook del Festival di Letteratura Sociale un comunicato che annuncia le intenzioni e ricapitola, diciamo, lo stato dell'arte. Invito ovviamente tutti ad andarlo a leggere, anche perché è ben più chiaro e ha sicuramente molto più valore di questa mia introduzione. Ma bene, bene, direi che è il momento di iniziare con la puntata di oggi, una puntata dedicata a una serie di libri, anzi di libretti, che hanno davvero formato una generazione di lettori. Ad esempio, io che vi parlo sono sicuramente fra questi. E li hanno formati con i suoi argomenti, con i loro argomenti pungenti e rari, e con scelte editoriali assolutamente forti e controcorrente. Parliamo dei mitici 1000 lire di stampa alternativa. Dunque, la puntata di oggi è davvero davvero ricca. Ripercorreremo un po' la storia di stampa alternativa e dei gloriosi 1000 lire, ma soprattutto avremo un sacco di brevi letture che puntelleranno tutta la trasmissione. Sì, sì, perché è bastato dire informalmente alcuni giorni fa a qualche compagna e compagno che questo è l'argomento di cui oggi avrei voluto parlare, che ha incontrato subito l'interesse di un sacco di persone che mi hanno mandato alcune letture dei loro 1000 lire. E sarà quindi una puntata in cui sentiremo molte voci e molti autori. E beh, io sono davvero felice ed emozionato per tutto questo. Prima di entrare nel vivo voglio però ricordare come si può interagire con me durante la puntata, ovvero con un messaggio inviato a postawombat@insiberia.net, oppure in modo più veloce ancora scrivendo direttamente nel pad che trovate, il cui link trovate nella home, nella pagina iniziale della radio. Sì, lì potete scrivere, io leggo tutto quello che scriverete e potete farmi sapere cosa ne pensate dell'argomento di cui parliamo, raccontarmi quali sono i 1000 lire che avete a casa, oppure dire anche semplicemente a quale siete più affezionati. Insomma, scrivete davvero quello che volete e farà sicuramente piacere. Ma direi che è il caso di procedere senza ulteriori indugi, metto magari una canzoncina di riscaldamento intonata al tema e poi via via con i 1000 lire. Siamo in onda, vai! Che disperazione, che delusione dover cantare sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani cara io troverò di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere, se potessi avere 1000 lire al mese, 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certa di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, un modesto impiego, io non ho pretese, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità d'un zio lontano americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Tornello ricanterò. Se potessi avere, se potessi avere 1000 lire al mese, 1000 lire esagerare, sarei certa di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ed eccoci. Allora, prima della storia, tanto sono sicuro che chi ci ascolta sa già di cosa stiamo parlando, direi che è il caso di mandare una lettura. Come ho detto, ce ne sono arrivate molte, le manderemo a scaglioni durante tutta la puntata. Mettiamo subito la prima e poi, dai, vi racconto un po' le vicende editoriali di stampa alternativa e soprattutto di questi favolosi 1000 lire. Quindi subito via con la prima lettura, ci sentiamo fra pochissimo. Ciao, sono Arianna e ero una grande fan dei libri 1000 lire che al liceo attaccavo tutti sul diario di scuola e collezionavo. Uno dei miei preferiti era la lettera sulla felicità di Epicuro, che è un filosofo che tutti sappiamo è sempre stato accostato al concetto di piacere, ma in questa lettera parla anche della morte e ne parla in un modo assolutamente attuale secondo me, quindi vado a leggere il brano che mi ha colpito di più. Poi abituati a pensare che la morte non costituisce nulla per noi, dal momento che il godere e il soffrire sono entrambi nel sentire, e la morte altro non è che la sua assenza. L'esatta coscienza che la morte non significa nulla per noi rende godibile la mortalità della vita, senza l'inganno del tempo infinito che è indotto dal desiderio dell'immortalità. Non esiste nulla di terribile nella vita, per chi davvero sappia che nulla c'è da temere nel non vivere più. Perciò è sciocco chi sostiene di aver paura della morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire, ma in quanto l'affligge la sua continua attesa. Ciò che una volta presente non ci turba, stoltamente atteso, ci fa impazzire. La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte, non c'è. Quando c'è, lei, non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più. Invece la gente ora fugge la morte come il peggior male, ora la invoca come requie ai mali che vive. Il vero saggio, come non gli dispiace vivere, così non teme di non vivere più. La vita per lui non è un male, né è un male non vivere. Ma come dei cibi sceglie i migliori, non la quantità, così non il tempo più lungo si gode, ma il più dolce. Chi ammonisce poi il giovane a vivere bene e il vecchio a ben morire, è stolto non solo per la dolcezza che c'è sempre nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una bella vita e di una bella morte. Ancora peggio chi va dicendo, bello non essere mai nato, ma nato al più presto varcare la soglia della morte. Se è così convinto, perché non se ne va da questo mondo? Nessuno glielo vieta se è veramente il suo desiderio. Invece se lo dice così per dire, fa meglio a cambiare argomento. Ricordiamoci poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Solo così possiamo non aspettarci che assolutamente s'avveri, né allo stesso modo disperare del contrario. Eccoci qua di nuovo. Eccola, questa è stata da Arianna la prima lettura della lettera sulle felicità di Epicuro. Come ho detto, sono tante le letturine come questa che sentiremo durante questa trasmissione. Beh, prima di iniziare però, siccome con i miei potentissimi mezzi posso vedere quante persone stanno ascoltando e siete davvero in tanti, quindi grazie davvero a tutti intanto da subito. E però, visto che in diversi si sono connessi negli ultimissimi minuti, allora ricordo soltanto che sul sito della radio si può cliccare sul link per il pad nella prima pagina della radio e quindi interagire con me. Qualcuno lo sta già facendo, mi conferma che i volumi vanno bene, che qualcun altro che apprezza la canzoncina che abbiamo messo è una chicca, sono assolutamente d'accordo. E qualcun altro mi scrive invece che oggi basterebbero 1000 euro al mese. Sì, basterebbero 1000 euro al mese, sono assolutamente d'accordo. Intanto Coso ci scrive sempre sul pad della radio che proprio la lettera sulla felicità di Epicuro gli fu regalata dalla madre per i 18 anni. E beh, che è proprio di queste storie particolari che vogliamo fare vivere questa puntata, quindi davvero invitatissimi a raccontarci un po' i cazzi vostri e delle 1000 lire, sì. Allora, sono davvero tante le letture di oggi, quindi accorcerò un po' la parte che mi compete e semplificherò la storia. Anche perché del resto io sono convinto che sono sempre più importanti gli esiti delle vicende che li hanno originati. Spero che siate anche d'accordo con me. Qualche cenno storico però lo diamo lo stesso e quindi iniziamo. Iniziamo raccontando che i 1000 lire hanno fatto la storia del Novecento. Sì, decisamente sì, non solo editoriale ma anche culturale e direi esistenziale. Allora, i 1000 lire sono una collana di libri tascabili, 10x14, un A4 piegato praticamente come dimensione, che è stata proposta a partire dal 1989 dalla casa editrice Stampa Alternativa, una casa editrice fondata da Marcello Baraghini negli anni 70. E beh, si può dire che i 1000 lire furono davvero una rivoluzione, non solo per il prezzo politico appunto di 1000 lire, ma anche e direi soprattutto per i contenuti e per la nuova generazione di lettori e lettrici che hanno formato. Vendettero in tutto 22 milioni di copie, pensate, e ora sono quasi tutti stati resi gratuiti, disponibili, scaricabili liberamente dall'editore, ma di questo ne parliamo più avanti. Allora, Stampa Alternativa, la casa editrice, nacque esattamente 50 anni fa, nel 1970, come un'agenzia di informazione per dare voce al movimento italiano della controcultura, che per tutti gli anni 70 aveva espresso nuove e originali forme di arte, di comunicazione, direi di vita. Inizialmente Stampa Alternativa funzionava come un centro di divulgazione su temi ignorati, perché considerati pericolosi o scabrosi. Parliamo di argomenti come sessualità, ambiente, aborto, obiezione di coscienza, droghe. E a proposito di droghe, non è a caso che il logo, il primo logo di Stampa Alternativa a quel tempo, era il disegno di un braccio, che formato dalla scritta Stampa Alternativa, era un braccio leggermente reclinato da cui spuntava una mano che reggeva fra il pollice e l'indice una foglia di marijuana. E questo è il primo bellissimo logo di Stampa Alternativa. E infatti il manuale per la coltivazione della marijuana fu il primo grande libro pubblicato da Stampa Alternativa. Vendette addirittura 500.000 e rotto di copie, portando fra l'altro a Baraghini la prima di una lunga serie di denunce per reato d'opinione. Qualche anno dopo, nel 1976, fu invece pubblicato il libro Contro la famiglia, manuale di autodifesa per minorenni. Questo vendette 60.000 copie e costò fra l'altro all'editore un mandato di carcerazione. Il senatore dell'MSI, e era anche il direttore del Borghese, Mario Tedeschi, attaccò pubblicamente il libro, e varie associazioni cattoliche raccolsero le firme nelle parrocchie per ottenerne il sequestro. Questo ebbe un esito e infatti Stampa Alternativa si sciolse. Baraghini entrò in latitanza, sì, perché aveva dei mandati di carcerazione, ma un anno dopo un'amnistia cancellò tutti e 137 i procedimenti penali a suo carico, 137. E, anche se mi sembra assolutamente importante dire che più che l'amnistia furono le mutate leggi dello Stato poi a delegittimare questi procedimenti, infatti l'obiezione di coscienza e l'apologia di aborto divennero appunto leggi dello Stato. Fu così che nel 1979 Stampa Alternativa riprese l'attività, questa volta come pura casa editrice. E il prossimo capitolo di questa storia è proprio quello dei 1000 lire, ma che ne dite? Letturina prima. Allora, ne ho tante, le mando in modo assolutamente casuale. Sentiamo la seconda. Diciamo che mandiamo Vieri, che legge Il Tempo di Seneca. Ciao a tutti, sono Vieri e sono stato un appassionato lettore di Stampa Alternativa e dei suoi libri in versione cartacea. Il libro che ho scelto della collana 1000 lire è Il Tempo di Seneca. Un libro che lessi nei primi anni 2000, durante un mio periodo di ricerca introspettiva. Il tema è sempre attuale, il tempo. Ne abbiamo avuto molto a disposizione a causa di questa quarantena. Chissà se lo abbiamo speso bene o gettato al vento. In ogni caso, è trascorso inesorabile. Dammi retta, Lucillo. Dedicati un po' a te stesso e tieni da conto, tutto per te, il tempo che finora ti lasciavi portar via, in un modo o nell'altro, o comunque perdevi. È proprio così, credimi. Il tempo ci viene tolto o sottratto, quasi a nostra insaputa, oppure ci sfugge, non si sa come. E la cosa più indecorosa è perderlo per trascurata leggerezza. Prova a pensarci. Gran parte della vita ci scappa via mentre agiamo in modo sbagliato. La maggior parte mentre stiamo senza far niente e l'intera esistenza trascorre in occupazioni inutili e che non ci riguardano veramente. Trovami, se sei capace, uno che dia al tempo il giusto valore, che capisca quanto può essere importante una giornata, che si renda conto che noi moriamo un po' ogni giorno. Perché questo è il punto. Noi pensiamo alla morte come a qualcosa che sta davanti a noi, mentre in gran parte è già alle nostre spalle. Tutta l'esistenza trascorsa è già in suo potere. Allora, caro Lucillo, fa come me. Tieni stretto il tuo tempo, ora per ora. Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente. Mentre rimandiamo le nostre scadenze, il tempo passa. Tutto ci è estraneo, Lucillo. Solo il tempo è veramente nostro. L'unica cosa di cui la natura ci ha fatto padroni. Ma è passeggera e instabile. E chiunque può estrometterci da questa proprietà. Che sciocchi gli uomini. Quando ottengono da qualcuno delle inezie di nessun valore, facili da rimpiazzare, sono pronti a farsele mettere in conto. Ma non c'è nessuno che si senta in debito se gli si concede del tempo. Eppure questa è l'unica cosa che non si può restituire, nemmeno se si prova grande riconoscenza. Forse ora mi domanderai come mi comporto io, che con te sono così largo di consigli. Ti risponderò con franchezza. Faccio come un riccone ordinato e diligente. Tengo il conto di quello che spendo. Non posso dire di non buttare al vento nulla, però posso dire che cosa butto via e spiegare perché e come. Sono in grado di render conto della mia povertà. Naturalmente capita anche a me, come alla maggior parte delle persone cadute in miseria senza loro colpa, che tutti siano pieni di comprensione, ma nessuno sia disposto a dare una mano. Ma che importa? Secondo me non è povero chi si fa bastare quel che gli resta, anche se è poco. Quanto a te, però, preferirei che ne tenessi ben stretto quello che hai, e dovrai cominciare subito. Perché, come dicevano i nostri vecchi, è troppo tardi fare economia quando si è arrivati al fondo. Tanto più che nel fondo non c'è solo ben poco, ma c'è anche il peggio. Addio. Resto sempre stupito quando vedo alcuni che, come se niente fosse, chiedono per sé spazi di tempo altrui e altri che, se glielo si chiede, sono pronti a accordare ore e ore della loro giornata. Il fatto è che tutti prendono in considerazione lo scopo per cui si chiede di impegnare il tempo, ma nessuno valuta il tempo in sé. Lo si chiede come se fosse una cosa da nulla e, come non fosse niente, lo si concede. Eppure si gioca con la cosa più preziosa che ci sia. Inganna perché è immateriale, perché non la si vede. Per questo non le si dà importanza. Anzi, è ritenuta quasi di nessun valore. Le rendite annue, gli stipendi si pagano cari. La gente se li suda e vi investe attività e impegno. Al tempo, invece, nessuno dà valore. Lo si usa con larghezza, come si fa con una cosa che non costa nulla. E arriviamo con questa breve storia all'89, al 1989, quando Stampa Alternativa, che già stava vivendo una prima crisi della casa editrice, pensò di rilanciare e anche, come dice l'editore in un'intervista rilasciata al Manifesto, di togliersi qualche sfizio. E fu così che pensò di ridurre il prezzo dei libri fino al costo di un caffè o poco più, come era allora appunto il valore di 1000 lire. I 1000 lire iniziarono così a essere pubblicati ed erano testi brevi, ma anche spesso fondamentali nella storia della letteratura, spesso voglio dire classici, e venivano scelti, diciamo, a intuito. E però non erano soltanto classici, infatti nella storia delle 1000 lire sono stati fatti convivere autori come Tacito, Plutarco, Spinoza, Epicuro, che abbiamo sentito come prima lettura, assieme a tanti giovani narratori, alcuni esordienti, alcuni addirittura minorenni. Oppure una storia importantissima è quella di Alda Merini, che allora quasi nessuno ancora conosceva, aveva pubblicato un paio di libri di poesia che erano arrivati a vendere poche decine di copie. Il suo 1000 lire, invece, vendette addirittura 300.000 copie e la fece diventare un vero e proprio caso letterario. C'erano nelle pubblicazioni, ci sono tuttora nelle pubblicazioni dei 1000 lire, alcuni autori incredibili. Giusto per fare qualche nome, davvero soltanto qualcuno, parliamo di Giovanni Papini, di Boris Vian, di Bukowski, Euripide, Mark Twain, oppure ancora Jonathan Swift, Emily Dickinson, Kerouac, Antonin Artaud, Keplero, Hoffman, eccetera, eccetera. Questi testi vivaci, sfacciati, questi testi divertenti venivano realizzati con l'ausilio di un tipografo amico e venivano venduti soprattutto inizialmente a Roma, a Porta Portese o alle fermate degli autobus, anche se il posto di vendita più clamoroso, e qua parliamo di centinaia di copie alla volta, era lo storico bar di Vezio, dietro a Botteghe Oscure. Vezio era un sovietico, un comunista de ferro, che nel suo bar aveva bandiera rossa, ritratti dei grandi leader, e veniva fra l'altro a quei tempi, in quegli anni, frequentato da giovani politici. Parliamo di gente tipo D'Alema, Veltroni, e questo soltanto per dire davvero quanto variegati erano i luoghi in cui 1000 lire riuscivano a fare breccia. Il primo titolo che ebbe successo al bar di Vezio fu Prospettive fiabesche di macchine rare, di Fortunato De Pero, che era stato preso da una delle tante riviste degli anni del fascismo, prima delle leggi razziali. L'idea era quella di asciugare ogni ridondanza del libro. Niente più copertina rigida e nemmeno a colori, nessun orpello, anzi in realtà sì, piccoli apparati critici ma brevi da leggere al volo, e poi testi di autori che duravano lunghi 30-40 pagine al più. È l'ora di una nuova lettura e ci sentiamo fra pochissimo. Tratto da Amorose evasioni, lettere d'amore a Giuseppina, da Napoleone e dai detenuti di Porto Azzurro, a cura di Simonetta Filippi e Clara Rota. Voce narrante e musica, Chiara Di Gangi. Amore mio, dal giorno in cui ti ho incontrato, la mia vita è iniziata ad avere un senso. Da quando non ti ho più sentita, intorno a me è tutto pieno di tristezza. Mi manchi tanto. Ti vorrei abbracciare, vorrei sentire la tua voce, il tuo sorriso che mi fa ringiovanire, le tue parole e tutto il resto. Sei la mia ragione di tutto, niente è più bello che essere insieme a te. Ma domani combatterò in una battaglia importante. E sarà una missione impossibile scriverti e combattere contro il nostro amore che sta per essere esaurito. E purtroppo non mi posso arrendere così presto, perché il nostro amore è molto fragile ed ho paura che si rompa. Non faccio altro che pensare e rimettere in piedi la nostra relazione segreta, come una volta. Ma tutto questo dipende da noi due, da come volevamo ricostruire. Io un'idea ce l'avrei, con tanto amore e tanta speranza. La nostra relazione al primo incontro fra noi sarà sempre fra noi e sarà per sempre unito, con tanto amore per te, Valentin. Dedicato ai congiunti di oggi e ai congiunti di domani. Che super dedica, che meraviglia. Questa era la lettura di Amorose visioni, letta e suonata da Chiara. Raccontavamo della storia dei mille lire e, beh, quando avvenne a un certo momento il salto, diciamo così? Il salto avvenne con la prima lettura che abbiamo sentito oggi, le lettere sulla felicità di Epicuro. E successe perché a un certo punto Corrado Augias mise questo libretto davanti alle telecamere di Babele, che era una trasmissione che andava in onda su Rai 3 nei primissimi anni 90. Non aveva concordato nulla con l'editore. Lo prese, lo mostrò alle telecamere e disse: prendetevi questo libro, vale milioni e costa solo 1000 lire. Da allora, nella classifica dei super economici sulla Repubblica, divenne il più venduto in assoluto, ininterrottamente per 3 anni. E arrivò addirittura a vendere tantissimo, un totale di 3 milioni di copie, soltanto la lettera sulla felicità di Epicuro, pensate. E era presentato con un breve commento critico, come erano molti dei testi delle pubblicazioni dei Mille Lire, e con il testo a fronte, in greco. Un altro libro di grande successo, invece, era stato subito dopo la lettera sulla felicità, è stato Papalagi, discorso del capo Tuiavi di Tiavea delle Samoa, un trattato etnologico pungente sui falsi miti occidentali. Secondo fra l'altro alcune interpretazioni, ma molto accreditate direi, il testo fra l'altro sarebbe un falso, sarebbe in realtà infatti stato realizzato da Erik Scheuermann, scrittore e pittore tedesco, che lo avrebbe diffuso in Europa spacciandolo per una sua traduzione di un vero discorso del capo samoano. Allora, mi stavo distraendo un attimo per leggere il pad. Sul pad c'è chi fa notare che un tempo all'Edison li vendevano ancora. Sì, me lo ricordo, in effetti anch'io ne ho presi parecchi all'Edison. E viene chiesto, c'è qualcuno che a Firenze li vende ancora cartacei? Io non lo so, devo dire la verità, non lo so. Qualcuno invece che all'ascolto, vedo che siete davvero in tanti, lo sa? Sa se a Firenze o magari nei dintorni vengono da qualcuno ancora venduti cartacei? Io però nella mia vicenda personale, devo dire la verità, non era l'Edison il mio punto di riferimento, ma era Feltrinelli. Entravo lì, ne leggevo diversi, me li compravo talvolta e me li mettevo in tasca talaltra, metto questa cosa. Prima di iniziare questa puntata, fra l'altro, sono andato a spulciare nella mia libreria a vedere quali avevo, alcuni avevo anche dimenticato addirittura di averli, ed ho trovato un sacco di cose, ce li ho qui davanti. Per esempio, uno che avevo pensato anche di leggere oggi, ma poi invece era molto più bello dare spazio a tutte queste belle letture che ci sono arrivate, è L'elogio dell'ozio di Stevenson, che fra l'altro mi farebbe bene rileggere decisamente, oppure I primi pensieri e aforismi di Bukowski, che fra l'altro ho un'edizione specialissima perché è sbagliata, cioè ce l'ho qua davanti e ci sono un sacco di pagine inframmezzate che non c'entrano niente, che sono prese da altre letture, contesto giapponese a fronte, che bello, è proprio sbagliato. Oppure ancora ho Guerriglia di Thomas Lawrence, e ancora cos'ho? Le ragioni del non voto a cura di Mingardi, e poi alcuni autori che io ho davvero scoperto per la prima volta con i 1000 lire, che poi mi sono portato dietro per un sacco di tempo leggendoli anche altrove, e parlo di Antonin Artaud, di cui ho qua Per gli analfabeti, Pour les analphabètes, oppure Jean Genet, Quatre heures à Chatila, 4 ore a Chatila, o ancora sempre di francesi, Il Marquis de Sade, il dialogo fra un prete e un moribondo. E poi cos'ho? Il giovane criminale di Jean Genet, che fra l'altro, rileggendolo in questi ultimi giorni, proprio prima di fare questa puntata, ho trovato una frase che mi ha molto colpito scoprire che avevo anche ripreso pari pari per una poesia che avevo scritto tanti anni fa, chissà se consciamente o inconsciamente, però mi ha fatto davvero piacere riscoprire questa, diciamo, coincidenza. In particolare del dialogo fra un prete e un moribondo, io ricordo di averne presi e regalati davvero tanti. Mi aveva colpito tantissimo e da lì ero andato anche a approfondire chi era il Marchese de Sade, che cosa aveva combinato in vita e quale personaggio incredibile fosse. Un altro autore che io ho scoperto, me lo ricordo bene, con le 1000 lire, e che però il suo 1000 lire non ho più, chissà che fine ha fatto, era Boris Vian, che poi ho letto moltissimo anche più avanti, e del quale fra l'altro mi è arrivata una lettura, che è una lettura dell'Amore cieco, vi mando adesso. Ciao, sono Melody E della collana Mille Lire ho scelto il libro Tre racconti di Boris Vian, che è un artista che apprezzo molto. I tre racconti sono Le formiche, Il richiamo e L'amore è cieco, e io ho scelto di leggervi alcune parti di quest'ultimo, L'amore è cieco. Orvers Latouille si svegliò il 13 agosto da un sonno di 300 ore. Finiva di smaltire una sbronza un poco pesantuccia e si credette di colpo cieco. Era certo il modo migliore di fare onore agli alcolici che gli erano stati serviti. Faceva buio, ma un buio differente, poiché con gli occhi aperti egli percepiva l'impressione che si prova quando il bagliore di una torcia elettrica viene a cadere sulle palpebre chiuse. Con mano maldestra cercò la manopola della radio. Funzionava e le informazioni in parte gli illuminarono la mente. Senza tener conto dei commenti oziosi dello speaker, Orvers Latouille rifletté. Si grattò l'ombelico e riconobbe, annusandosi l'unghia, che aveva bisogno di un buon bagno. Ma la comodità di quella nebbia gettata su ogni cosa, come il mantello di Noè su Noè, o come la miseria sul povero mondo, o come il velo di Tanit su Salombò, o come un gatto dentro un violino, lo fece concludere per l'inutilità di un bagno. D'altronde, quella nebbia aveva un dolce odore di albicocca tubercolotica e doveva stroncare gli effluvi della persona. Dapprima Orvea sgombrò la mente da tutti i problemi e decise di agire come se niente fosse. Di conseguenza si vestì senza affanno, giacché gli abiti erano sistemati nel loro posto, cioè alcuni su sedie, altri sotto il letto, i calzini nelle scarpe, una delle scarpe in un vaso e l'altra sotto il pitale. Dio bono, si disse, che stramberia questa nebbia! Quella riflessione, priva di grande originalità, lo salvò dal ditirambo, dall'entusiasmo ordinario, dalla tristezza e dalla nera malinconia, collocando il fenomeno nella categoria delle cose semplicemente constatate. Ma poco a poco si maldansiva e si abituava all'insolito a tal punto da prospettare una qualche esperienza umana. Scendo dall'affittacamere e lascio la porta aperta, disse. Voglio proprio vedere se c'è nebbia o se è colpa dei miei occhi. Giacché lo spirito cartesiano del francese lo porta a dubitare dell'esistenza di una nebbia opaca, anche se ce n'è abbastanza da tappargli la vista. E non è quel che si può dire alla radio che rischia di orientare la sua decisione nel farlo propendere per la stranezza del fenomeno. Alla radio, si sa, sono tutti quanti rincoglioniti. Me lo tiro fuori, disse Orvert, e scendo così. Se lo tirò fuori e scese così. Incrociò qualcuno che saliva rasentando il muro. Chi è? Disse fermandosi. L'Hérande, rispose L'Hérande, il dirimpettaio. Buongiorno, disse Orvert. Qui Latouille. Tese la mano e incontrò qualcosa di rigido che lasciò andare con stupore. L'Hérande ebbe un riso di imbarazzo. Le domando scusa, ma non ci si vede niente, questa nebbia è maledettamente calda. È vero, disse Orvert. Pensando alla patta aperta, fu irritato nel constatare che Leon aveva avuto la sua stessa idea. Allora arrivederla, disse Leon. Arrivederla, disse Orvert, allentando di soppiatto i tre buchi della cintura. I pantaloni gli caddero ai piedi ed egli se li tolse. Poi li gettò giù nella tromba delle scale. Di fatto quella nebbia era calda come una passera febbricitante. E se Leron se ne andava in giro con tutto l'armamentario all'aria, Orvert non poteva restare vestito così. O tutto o niente. Giacca e camicia volarono via. Conservò le scarpe. Poi vi faccio un riassunto. Io scende giù e incontra l'affittacamere, che era un bel donnone in carne, anche lei totalmente nuda. Dopo una breve conversazione, lei riesce a circuirlo e si incontrano carnalmente. Dopodiché lui uscì in strada. Dio bono, disse, una nebbia afrodisiaca. Come si può vedere, le riflessioni in questione variavano poco. Ma bisogna mettersi al posto di un uomo che dorme per 11 giorni, che si sveglia in un'oscurità totale, complicata da una sorta di intossicazione licenziosa e generalizzata, che constata che la sua grossa affittacamere cadente si è trasformata in una valchiria dai seni puntuti e prosperosi. Circe avida d'una caverna di piaceri imprevisti. Accidenti, disse ancora Orver, per precisare il suo pensiero. Dopodiché si diresse dal panettiere. C'era un gran chiasso nel negozio. Orver era un uomo di pochi pregiudizi, ma quando comprese cosa esigeva la fornaia da ciascun cliente e il fornaio da ciascuna cliente, sentì i capelli rizzarsi sulla testa. «Se le do un pane di 2 libbre?» disse la fornaia. «Sono in diritto di domandarle il formato corrispondente, demonio cane!» «Ma signora!» protestò l'organo acuto di un vecchietto nel quale Orver riconobbe il signor Curpip, il vecchio organista del fondo della via. «Ma signora! E lei suona l'organo! A canne!» disse la fornaia. Il signor Curpip si arrabbiò. «Glielo manderò per posta, il mio organo!» disse fieramente e si diresse verso l'uscita, ma Orver era proprio lì e l'urto gli mozzò il respiro. «Avanti il prossimo!» sguaì la fornaia. «Vorrei un pane!» disse Orver a fatica, massaggiandosi lo stomaco. «Un pane di 4 libbre per il signor Latouil!» sbraitò la fornaia. gemette Orver. «Un pane piccolo!» «Villano!» disse la fornaia e rivolgendosi al marito. «To Lucien, occupati tu di lui, così impara!» A Orbert gli si rizzarono i capelli sulla testa e se la svignò a gambe levate. «Ma insomma, accidenti!» imprecava Orbert sul marciapiede. «Preferisco scegliere io con il grugno che si ritrova con la fornaia!» Poi si ricordò della pasticceria dopo il ponte. La commessa aveva 17 anni e la bocca a forma di cuore e un grembiulino goffrato. Forse non sbagliava a pensare che avrebbe indossato solo il suo grembiulino. Orver si diresse a grandi passi verso la pasticceria. «Roma!» mormorò. «Quo vadis, Fabiola, et cum spirito tuo, le orge! Oh!» Dopodiché succedono varie cose, ma io arriverò direttamente al capitolo finale. Tuttavia la radio segnalò che degli scienziati notavano una regressione regolare del fenomeno e che lo strato di nebbia si abbassava di giorno in giorno. Vi fu un gran consiglio, essendo la minaccia gravissima. Ma, come il genio dell'uomo ha 1000 sfaccettature, si trovò presto una soluzione e quando la nebbia si dissipò, come indicarono gli speciali apparecchi rivelatori, la vita poté continuare felice, giacché tutti quanti si erano orbati gli occhi. Fine. E lo leggo, lo vedo che vi è piaciuto parecchio questo disertore, questa lettura di Boris Vian, e allora raccolgo ben volentieri subito anche l'invito che mi è stato fatto sul pad di mettere il disertore di Boris Vian. Lo faccio molto volentieri, sì. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. « Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Che meraviglia, che bellissima canzone. A me piace davvero tantissimo e sono davvero in un momento d'oro qua. E allora vorrei insistere ancora un attimo su Boris Vian, che vabbè, dai, oltre che scrittore, giusto per raccontare per chi non lo sapesse, è stato un sacco di cose. Ha scritto per il teatro, ha scritto un sacco di poesie, questa canzone era tratta da una sua poesia, e poi è stato un compositore, un jazzista, un traduttore. Wow, eh! E spero di non annoiare se mi prendo due minuti ancora, due, su Boris Vian, visto che mi è stata data questa suggestione di poco fa con Le Déserteur. Vorrei mettere anche una versione del disertore a cui io sono molto affezionato, l'ho sentita non so più nemmeno quante volte. È una versione live del disertore fatta in italiano dai Mercanti di Liquore. Sì, ve la metto. Egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti chiederò di non partire più e di non obbedire, per andare a morire, per non importa chi. Per cui se servirà del sangue no di costo, andate a dare il posto, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Quanti commenti su Boris Vian, un personaggio che evidentemente piace davvero a tanti. E beh, giusto per, ricordo che è morto, che aveva giusto 40 anni, lasciandosi alle spalle non so quanti libri, centinaia di canzoni, di romanzi e pièce teatrali. Grande. Train, train, coming round, round the bend. Va bene, direi di mettere subito un'altra lettura e poi riprendiamo con la storia delle mille lire di stampa alternativa. Questa... no, non l'annuncio, tanto si presenta da sé. E buonasera, buonasera, wombati e wombatesse. Mi sono voluta anch'io unire oggi alla lettura dei mitici mille lire, scegliendo... Ho la vagina pectoris, i malanni secondo i pazienti, a cura di Claudia Garabello, Luisa Lanza e Cristiano Marchetti. Praticamente descrizioni dei sintomi fatte da pazienti e puntigliosamente raccolte da medici e infermieri. Ma non voglio togliere altro tempo alla lettura e quindi voce ai pazienti. Dottor, ho l'abete alto. Insomma, dottore, tirando le cuoia, che cos'ho? Dottor, ho il polistirolo a posto, perché me lo controllano al centro antidiabolico. Non mi metta il termometro interno perché, detto tra noi, sono come una signorina da quel punto. Ho un'ulcera sanguinaria. Ho la libido alta nel sangue. Ho un po' di sifilide al naso. Mi è uscito un gruzzolo di sangue dalla bocca. Dottor, mia sorella... all'ernia laterale, non mangia più ed è tutta debellata. Mio marito è stato operato perché ci aveva le ingerenze nella pancia. Tengo la crostata ingrossata. Mi hanno fatto la puntura sotto Catania. Ho gli ovuli bianchi alti. Ho un rene scaduto. Dottor, avevo come l'acqua che scende dalle montagne nell'orecchio. Bellissimo, bellissimo. Mi manca l'asma, dottor. Mi girano gli occhi come se avrei le stelle filanti. Un'infermiera a un paziente. È vaccinato contro il tetano? No, sono allergico al tetano. Ho sentito come una ruota che girasse nella pancia. Ho avuto un vinctus. Non respiro più a causa della valvola emicranica. Ho avuto un mezzo collasso 10 anni fa e l'altro mezzo oggi, dottor. Ho avuto vomito senza vomito. Sono svenuto e mi gira tutto il cervello. Il catarro si mette come un cappio al collo, le vertebre rovesciate e l'artrosi ai reni. Dottor, ho bisogno del dottore necrofilo perché è un inizio di necrosi al dito. Mio papà c'ha il morbo di Pakistan. Prendo le gocce per la circonvallazione. Medico. Ha ancora il termometro, signora? Paziente. No, dottor, mi è passato. Dottor, ho preso queste pastiglie e mi è venuto un grosso riscaldamento al piscio. Un medico. È svenuto? E il paziente. No, non ci sono riuscito. Mi sento molle, mollicchia e mollacchiona. Mi sento come se avessi la febbre nelle dita. Ho la tosse forte e nella mucosa ho visto gli escrementi del sangue. Ho l'utero introverso. Ho fatto un rutto come se avessi un bue nello stomaco. Ho un braccio scemo. Il fatto di avere lo stomaco, dottore, è normale? Poi, dottore, sentivo proprio delle voci nella testa. Si vede che è la pressione che parla alto. Ho avuto l'enciclopedia apatica. Ho l'impressione alta. Continuo ad avere la tosse abbaiante. Mi si ghiaccia dietro tutto il cervello e il pomello non va né su né giù. Camminando però ritorna la caloria al cervello. E ora chiudiamo con il mio preferito. Dottore, ho l'orso poroso. E vai sull'orso poroso, ritorniamo. Allora, io vorrei qua però fare una ancora una parentesi, dai, tanto va così questa puntata. Più che della storia delle mille lire vorrei per un attimo davvero raccontare della tessera da giornalista che rilasciava Stampa Alternativa. Sì, io devo dire la verità, fra l'altro è una storia che mi riguarda anche personalmente perché io me la feci dare. Era, non mi ricordo che anno, ero insomma i primissimi anni delle scuole superiori e avevo letto sul sito di Stampa Alternativa che era possibile farsi dare una tessera da fotogiornalista. Ovviamente non era ufficiale, non permetteva l'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Però allo stesso tempo poteva essere usata da chiunque per scopi diversi, ad esempio quello di entrare in delle situazioni in cui un normale cittadino magari non l'avrebbe potuto fare, come potevano essere conferenze stampe o comizi, o magari poteva essere usata, come senza successo fra l'altro tentai di fare, per entrare in degli spettacoli teatrali o dei concerti per cui talvolta è permesso ai giornalisti di entrare senza pagare. Io la presi perché andavo alle manifestazioni e mi piaceva di avere la tessera da giornalista, permettermi di fare delle fotografie. In realtà non mi è mai usata, non mi è mai servita, ma l'ho portata con me. E ho fra l'altro con sorpresa letto che ancora oggi è possibile riceverla. Praticamente in questa tessera c'è scritto che acquisisci lo stato di fotogiornalista corrispondente di Stampa Alternativa, agenzia regolarmente registrata presso il Tribunale di Roma. Questa possibilità è data quasi gratuitamente, basta un piccolo contributo, quest'anno è di 25 euro e ti viene data mandando due fototessere e i tuoi dati a un indirizzo che si può trovare sul sito di Stampa Alternativa, ti viene rimandata via posta questa tessera, anche bella, colori rosso, nero e bianco. E niente, con questa tessera ti puoi accreditare in diverse situazioni come giornalista, non lo sei effettivamente, ma puoi tentare di utilizzarla e magari può pure tornare comoda. Io la mia l'ho cercata ma non l'ho ritrovata, purtroppo mi sarebbe piaciuto. Però ho letto anche che tuttora è data possibilità dalla casa editrice, per chi voglia dare vita a una pubblicazione, di usufruire dell'etichetta supplemento a Stampa Alternativa. Questo serve per aggirare le norme che richiederebbero la presenza di un giornalista regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti per risponderne penalmente. Cioè chi volesse fare delle pubblicazioni forti, a rischio, si può appoggiare a Stampa Alternativa aggiungendo appunto questa etichetta. Sembra un altro fatto interessante da dire. Mi scrivete, da pubblicista più che da giornalista o ricordo male? Non sono la tessera, parliamo via. Non sono sicuro, non ricordo, non ha un valore ufficiale, non sei un giornalista con questa tessera, devi essere iscritto all'ordine, per averlo fatto devi avere tot articoli pubblicati su una testata riconosciuta, quindi è in realtà ufficialmente un foglio di carta, però può davvero servire soprattutto nei confronti di chi questa cosa non la sa. Va bene, lettura. È il momento di scene di caccia nei cassonetti, lette da Giovanni. Ciao, sono Giovanni Ceccanti e vi leggo un pezzo di scene di caccia nei cassonetti di Zybist. Se avete le palle piene di tutto e le persone intorno a voi vi disgustano, se non volete più pagare pedaggi diabolici, se avete fatto qualsiasi cosa e vi ha stufato, oppure se pensate di poter fare qualsiasi cosa senza vergognarvi, se siete vecchi e stanchi e il destino vi ha tolto tutto quello che era possibile togliervi, o siete giovani e arzilli e pensate che tutte le possibilità che avete davanti sono solo una montagna di merda, allora ascoltatemi, perché ho una strada di vera merda da proporvi, ma una merda che vi sceglierete voi e nella quale tutto ciò che troverete sarà solo vostro. Bruciate i vostri libretti degli assegni, le vostre carte di credito, stracciate la vostra partita IVA, dimenticatevi del vostro codice fiscale, nascondetevi nella notte cupa e puzzolente dell'emarginazione. Se non volete rubare perché vi fa schifo entrare nelle schiere bestiali di questo universo predatorio dove tutti sono ladri, ineluttabilmente ladri e vittime di ladri. Se non volete elemosinare perché vi fa schifo entrare in quella delle larve umane che cercano di ottenere le cose da dietro o da sotto, oppure, disperatamente risucchiati, non riuscite a vedere una luce sull'orizzonte della sopravvivenza, qualche strano artificio del destino, eppure così tanto vostro, allora siete pronti per il cassonetto, per quel suo fetido, rancido, nauseabondo, inimitabile odore che sa tanto di libertà. Diventate un cacciatore metropolitano. Si può farlo da soli o in compagnia, lavorare in qualità o in quantità, prendendo solo quello che piace o tutto il minimamente passabile che si riesce a rimediare. Si può farlo con gli occhi allucinati e il cervello annebbiato, oppure con la fredda e precisione e determinazione del killer. Si può farlo per tirare su le poche migliaia di lire che servono a sopravvivere nella propria lussuosa indolenza, ma anche per mettersi da parte un po' di quattrini per andare in vacanza. Non sto raccontando favole metropolitane, posso fare i nomi e i cognomi, e di tutto e di tutti. Voglio dire che ognuno ci può mettere l'impegno che ritiene più opportuno, i risultati sono proporzionali. Si può farlo anche per pura follia, morbosa attrazione per lo zozzo, un viscido serpentello che comunque tutti quelli che hanno intenzione di dedicarsi a questo sport devono temere. In questo caso si prende solo quello che non serve a nulla. Ormai l'ho detto, è vero, si può farlo anche per sport. Per esempio, qualcuno ha voglia di muoversi un po', non sa dove andare, non ha soldi da spendere, non è un patito del jogging, non sa cosa fare, non ha amici da andare a trovare. Stare a casa ancora un po' lo potrebbe far diventare matto, ed ecco un bel percorso metropolitano, costellato di tante piccole tappe misteriose pronte a fornire un possibile premio. E via, uno dopo l'altro, con calma, distacco e curiosità. Eh già, si può farlo anche per divertimento. E poi diciamolo, gratta gratta, dentro a molte persone insospettabili si annida un vorace cacciatore metropolitano. Insomma, si può farlo semplicemente per arredarsi casa, oppure per diventare degli incalliti trafficanti di monnezza. Merce a costo praticamente zero, IVA pagata e guadagno in nero. Cosa volete di più? Voi dite che la caccia metropolitana non è solo andare in giro come uno scemo topo furtivo frugando nella lordura dei vicini, ma anche una misurazione e accumulazione di energie morali? Perché no? Non si affronta la vergogna senza averne un premio, un bonus di forza. Oltretutto, per poterla affrontare bisogna lavorare parecchio nella montagna della nostra presunzione. E si sa che lavorare in montagna fa bene. Wow, ho buttato un occhio all'orologio, sto andando decisamente lungo e soprattutto perché dopo di me c'è la bellissima trasmissione della fuga del gatto e quindi subito in sequenza un'altra lettura, via! Ciao a tutti, sono Benedetta e questo è un estratto dal diario di Adamo ed Eva. Non è un canguro. No. Perché si tiene dritto attaccandosi alle mani di lei e così fa pochi passi sulle zampe posteriori e poi cade. Probabilmente è una qualche specie di orso, eppure non ha una coda, fino ad ora, né pelo, tranne che sulla testa. Seguita ancora a crescere, circostanza curiosa, perché gli orsi smettono di crescere prima. Gli orsi sono pericolosi. Da dopo la nostra catastrofe. Ed io non mi sentirò tranquillo di averlo ancora un pezzo intorno a noi senza museruola. Le ho offerto di portarle un canguro se lascia andare questo, ma non c'è niente da fare, è decisa a trascinarci in ogni sorta di stupidi pericoli, credo. Non era così prima che perdesse la testa. Una quindicina di giorni dopo. Gli ho esaminato la bocca, non c'è ancora pericolo, ha un solo dente. Non ha ancora la coda. Ora fa più rumore di quanto ne abbia mai fatto e soprattutto di notte. Me ne sono andato un po' fuori, ma tornerò domani mattina a colazione per vedere se ha altri denti. Se avrà la bocca piena di denti, sarà ormai ora di lasciarlo andare, coda o no, perché un orso non ha bisogno della coda per essere pericoloso. 4 mesi dopo. Sono stato fuori un mese a caccia e a pesca nella regione che lei chiama Buffalo. Non ne so la ragione, a meno che perché lì non ci sono bufali. In questo frattempo l'orso ha imparato a zampettare in giro da solo, sulle zampe posteriori, e dice babbo e mamma. Appartiene certamente a una nuova specie. Questa rassomiglia con le parole può essere sì del tutto occidentale e può non significare nulla, ma anche in questo caso è pur sempre straordinaria ed è una cosa che nessun altro orso può fare. Questa imitazione del linguaggio, insieme alla generale assenza di pelo e all'assoluta mancanza di coda, indica sufficientemente che si tratta di una nuova specie d'orso. Un ulteriore studio dell'animale sarà estremamente interessante. Perciò mi recherò nelle foreste del nord per fare una ricerca esauriente. Deve essercene per forza un altro da qualche parte. E questo sarà meno pericoloso quando avrà un compagno della sua stessa specie. Andrò immediatamente, ma prima gli metterò la museruola. 3 mesi dopo. È stata una caccia lunga e faticosa, eppure non ha avuto successo. Nel frattempo lei, senza allontanarsi dai dintorni di casa, ne ha acchiappato un altro. Non ho mai visto una fortuna simile. Per conto mio avrei potuto anche andare a caccia per quei boschi per un centinaio di anni e non mi sarei mai imbattuto in quella roba. Il giorno dopo. Ho confrontato il nuovo con il vecchio ed è perfettamente chiaro che sono della stessa specie. Volevo impagliarne uno per la mia collezione, ma lei si è sempre opposta per una ragione o per l'altra. Così ho abbandonato l'idea, per quanto ritengo che sia un errore. Sarebbe una perdita irreparabile per la scienza se dovessero scomparire. Il più grande è molto più addomesticato e sa ridere e parlare come un pappagallo. Ha imparato senza dubbio perché sta sempre insieme al pappagallo ed ha la facoltà imitativa molto sviluppata. Mi meraviglierei molto se dovessi scoprire che è una nuova specie di pappagallo. Eppure non dovrei meravigliarmi di niente, perché è già stato tutto quello che si poteva immaginare, a cominciare da quei primi giorni in cui era un pesce. Questo nuovo è brutto, così come lo era il primo. Ha lo stesso colore di carne cruda e la stessa strana testa senza pelo. Lei lo chiama Abele. 10 anni dopo. Sono bambini. Ce ne siamo accorti tanto tempo fa. Era il fatto che venissero in quella forma così piccola ed immatura che ci metteva in imbarazzo. Non ci eravamo abituati. Ci sono anche delle bambine ora. Abele è un buon ragazzo, ma se Caino fosse rimasto orso, forse non sarebbe stato male. Dopo tutti questi anni mi sono accorto che mi ero sbagliato sul conto di Eva. È meglio vivere fuori del giardino con lei che dentro senza. Da principio pensavo che parlasse troppo, ma ora mi dispiacerebbe se quella voce dovesse tacere e scomparire dalla mia vita. Benedetto sia il marrone che ci mise insieme e a me insegnò la bontà del suo cuore e la dolcezza del suo spirito. When I was Ed eccoci, non la voglio davvero tirare oltre misura, anche perché fra pochi minuti ci sarà la trasmissione che segue. Allora, mentre c'erano le ultime due letture, parlo un po' veloce adesso. Sono andato a vedere sul sito di Stampa Alternativa e c'è addirittura, a proposito della tessera da giornalista, c'è pubblicato qualche stralcio di lettere che hanno accompagnato, fra l'altro, la richiesta del rinnovo della tessera giornalistica. Ne leggo giusto un paio, come quella che dice: con questa lettera desidero rinnovare la croccante tessera stampa, una delle poche tessere che mi è stata veramente utile nel corso dei miei pellegrinaggi. O ancora un'altra: siamo sempre più convinti che la press card di Stampa Alternativa sia un'invenzione non secondaria alla Bibbia o alla chitarra elettrica. Perciò anche quest'anno la rinnoviamo. Un'altra ancora: faremo del nostro meglio per sfruttare la tessera, cercheremo di visitare quante più mostre, musei e gallerie per accrescere il nostro bagaglio culturale. Viviamo in un periodo di mercificazione culturale, di monetarizzazione del sapere e a questo ci opponiamo fermamente. O l'ultima: desidero rinnovare la mia press card per quest'anno, è stata utilissima e mi ha permesso di visitare tutti i musei di San Francisco, Los Angeles e New York. Grazie. Yeah. Quindi sì, oltre che spettacoli, concerti, musei, come no? Certo, all'estero poi sanno un cazzo loro. E invece, tornando velocemente alla storia di Stampa Alternativa, davvero velocemente, raccontiamo velocemente soltanto dei container, che è stata un'idea venuta a un certo momento, siamo negli anni zero, in cui diversi titoli dei Mille Lire venivano raccolti assieme in appositi contenitori. Ce n'erano alcuni che stavano dentro a un pacchetto che veniva chiamato Marlboro, perché somigliava a quello di un pacchetto di sigarette, che erano alcuni volumetti di genere noir, oppure ancora quelli raccolti dentro alla confezione finto Tetra Pak del latte, oppure la finta confezione Sette Belli, che parlavano ovviamente di argomenti sessuali, o ancora l'antologia Cyberpunk, che raccoglie invece editi e inediti anche di autori italiani e non, all'interno di una confezione che richiama quelle dei floppy disk. Insomma, tutto questo, fra l'altro, ebbe moltissima rilevanza all'estero, fu discusso su giornali americani, francesi, giapponesi, addirittura in Giappone divennero proprio oggetti davvero di culto, e anzi l'editore fu addirittura invitato in qualità di docente di marketing presso l'Università di Tokyo. Dal 2007, scusate se vado davvero un po' veloce, invece... dalla fine degli anni lettura e ci sentiamo fra poco. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old... Ciao a tutti, sono Chiara Scialli. Vorrei leggervi un estratto di uno dei piccoli libriccini della collana Mille Lire, appunto, che parla di un cowboy ostinato che cerca di domare un cavallo selvaggio e libero della prateria. E il libro si intitola Immense praterie di Spirito Lupo. Il pomeriggio pareva aver alimentato i rumori del bosco ed un sottofondo di cinguetti, suoni strani e fruscii si accese. La piccola radura del bosco inoltrato attirò l'attenzione degli uomini. «Andiamo a vedere là», fece incuriosito McFarley. L'elba era più alta e gruppi di diverse piante rendevano il luogo un posto insolito. Improvvisamente il rumore di un grosso ramo spezzato fece girare i due uomini. Che cos'era? Non lo so, Mac. Andiamo a vedere. Un gruppo di grossi arbusti ondeggiò improvvisamente, segnando il passaggio di qualcosa. Forse un puledro smarrito, Jack. Non facciamocelo scappare, gridò ansiosamente così l'irlandese. Non c'è più, è scappato, rincalzò Jack giunto sul posto. «Eccolo là, eccolo là!» gridò Mac, e mentre girava la testa, un'espressione di terrore e sgomento disegnò il suo volto. Già, molto muscoloso, si muoveva con quattro arti carponi, ma quello che sconvolgeva era la sua eterogeneità. Sopra il muso equino aveva dei peli che assomigliavano a un fascio d'erba. La bestia mostrò al povero Mac le sue estremità. Era incredibile. I suoi arti anteriori terminavano con degli zoccoli, mentre quelli posteriori con dei piedi umani. Jack era rimasto immobile, pietrificato alla visione. La bestia continuava a fissare i due con lo sguardo incerto. Era attratta dalla presenza degli uomini. C'era in loro qualcosa di inconsueto. Pareva quasi che volesse comunicare con loro. Improvvisamente si alzò sulle estremità posteriori e dallo strano muso partì un forte nitrito. Andiamo via, urlò Mac. Il sudore pese a scendere copiosamente sul viso interdetto di Jack. La bestia, nitrendo, ancora mostrò i lunghi denti e agitò furiosamente gli zoccoli contro le due figure. Mac urlò come folgorato. Non hai capito! Non hai capito! Possibile che non hai capito! Non l'hai riconosciuto! È Clive! Dio! È terribile! Il cavallo! Il cavallo gli ha trasferito le sue forze animali! Lo ha! Le parole stentavano ad uscire, quasi lottassero per farlo. Lo ha domato, disse alla fine. Dovevamo lasciarlo libero. Aveva ragione Larsen. Siamo stati tutti degli imbecilli. Quando Clive credeva di domarlo, in realtà era il cavallo che silenziosamente gli trasferiva il suo essere animale. Non dovevamo sfidare la prateria e le sue leggi con quel maledetto cavallo. Guarda come ha ridotto Clive, terminò Jack con gli occhi immobili. Andiamo via, scappiamo. Non possiamo, e Clive? Clive! Clive! Urlò Jack implorante, ravvisando nella bestia il compagno di tante giornate. La sinistra figura guardò Jack con gli occhi assenti e poi si agitò ancora e con uno scatto cercò di colpire il cowboy. Fu solo allora che i due, sconvolti, si precipitarono al ranch. Nessuno volle più tornare in quel bosco. Qualche tempo dopo, al saloon, dei coloni raccontarono di aver visto un fantastico branco di cavalli selvaggi imperseverare nei territori dell'immensa prateria, con alla testa un cavallo nero mai visto prima. Ma nonostante tutto, nessuno fu veramente convinto. Ancora oggi, giù nel Colorado, ne parlano. Ciao, mi chiamo Barbara e questo librino l'ho comprato a Pisigliano. Si intitola Se non sei felice è tutta colpa tua, e il libretto dei proverbi tibetani a cura di Fabio Zanello. Vi leggerò la parte dei consigli e osservazioni. Non confidare nelle parole, confida nel significato. Se dici che c'è differenza, allora c'è una differenza, come tra fratello e sorella. Per quanto riguarda gli amici, preferiamo i vecchi. Per quanto riguarda gli abiti, preferiamo i nuovi. Al momento opportuno di smontare da cavallo, scendi. Al momento opportuno di inchinarti, rendi omaggio. Non guardare alla carne fresca, guarda alla mente pura. Sia stata la controversia grande o piccola, tuttavia l'oceano è ancora luminoso e chiaro. Le nuvole sono le signore del cielo, la carne la morbidezza delle ossa. Anche a battere l'acqua con una mazza, la dimensione del pesce non si accresce. Mangiare tanto o poco aglio per l'alito non fa la differenza. Una richiesta non è soddisfatta da una mano vuota. Il legno umido della vite rampicante non porta il tè all'ebollizione. Sebbene gli uccelli volino alti in cielo, la loro ombra striscia sulla terra. Sebbene gli uccelli volino alti in cielo, la loro ombra striscia sulla terra. Questa mi garbava. Che ci sia chiarore intorno o no, guarda bene giù. Che stai danzando o no, fai attenzione ai piedi. Dopo aver chiamato un cane, uno non dovrebbe picchiarlo. Se uno non ha conosciuto sofferenza, come può provare piacere? Sebbene l'oro giaccia nella terra, la sua luce brilla nel cielo. Se un incendio fosse appiccato all'intero oceano, non ci sarebbe acqua per spegnerlo. Se non hai fortuna, non c'è furbizia che tenga. Con troppe chiacchiere non c'è più comprensione. Con troppe percosse non c'è più sofferenza. Se uno vacilla nel proposito di apprendere, non c'è speranza feconda di essere istruiti. Se uno vacilla nel proposito di apprendere, non c'è speranza feconda di essere istruiti. Non sai, agisci come se sapessi. Non possiedi, agisci come se avessi. Un problema è come due conigli a caccia che balzano fuori in corsa dalla tana. Muoviti prudente come una volpe, siedi eretto come un coniglio. Un vero uomo non vive nelle comodità. Una capra non dimora nelle terre di pianura. Per un solo capello che tiri ti farà male tutto il capo. Se il corpo non è malato, non c'è ragione per una faccia triste. Se conosci il trucco, c'è felicità anche all'inferno. Ficca dell'oro nell'orecchio di un asino e lui lo getterà via. Ficca della sabbia nell'orecchio di un asino e lui la getterà via. A cosa servono ricchezze se non ti sono utili quando sei in difficoltà? A cosa servono dei parenti di valore se di nessun aiuto quando sei nell'angoscia? Una tigre conosce 18 espedienti per balzare, una volpe 19 per nascondersi. A parlar troppo avrai contro anche i parenti. A parlar bene anche il tuo nemico sarà con te benevolo. Non è saggio per un diavolo arrivare nella terra degli dèi. Vediamo. Apparenza e ipocrisia. Fiori e gioielli sono sempre più apprezzati quanto pochi. Per incrementare i propri affari, le apparenze povere sono le migliori. Dopo una prima impressione di dolcezza, all'odorato, un profumo è di nessuna utilità quando è svanito. E vediamo come finiamo. Vuoto nel cuore, amabile nella bocca. Ecco qua. E così sono arrivata al tempo massimo. Un bacio a tutti e grazie. Ciao. Grazie anche invece da parte nostra a Barbara e a tutti gli altri lettori e lettrici che abbiamo sentito oggi. Abbiamo ancora una lettura e mezzo, ma il mio tempo a disposizione è decisamente già finito. Sentiamo comunque queste letture, vi racconto soltanto la fine. Vi racconto la fine, arrivano gli anni zero, arriva la grande distribuzione, arrivano le librerie di catena, c'è meno spazio per le librerie indipendenti, i 1000 lire sono non più concorrenziali di fronte ai libri della Newton Compton che si presentano come 100 pagine con copertina rigida a 1 euro, erano già arrivati a costare 1 euro anche i 1000 lire. Questo ha fatto sì che smettessero di essere richiesti dai distributori, dai librai, e che smettessero di essere distribuiti. In alcuni articoli Baraghini accusa di dumping, cioè di concorrenza sleale, di vendere sotto costo per poi acquisire posizione monopolistica nel mercato la Newton Compton. Fatto sta che comunque ha cessato la pubblicazione dei 1000 lire. Hanno preso vita dal 2007 i Bianciardini, che sono in omaggio allo scrittore anarchico Bianciardi. Stessa formato, contenuti non dissimili da quelli dei 1000 lire. Alla fine la casa editrice ha chiuso e tuttavia dal 2003 si organizza Stampa Alternativa, organizza e tuttora organizza Pitigliano, vicino a Grosseto, ogni anno a giugno un'edizione di un festival internazionale di letteratura resistente. Quell'edizione di quest'anno, quella del 2020, per i 50 anni appunto della casa editrice, non si svolgerà ma sarà rimandata al 2021. Ovviamente si vuole richiamare lettori liberi e librai indipendenti in questo borgo di Pitigliano tutti gli anni. La prima edizione, fra l'altro, è stata dedicata di questo festival agli scrittori analfabeti. Sempre a Pitigliano esiste anche la libreria di stampa alternativa, una libreria in cui si possono trovare, questo magari risponde alla domanda di chi lo chiedeva prima, anche tutti i vecchi mille lire, oltre che i nuovi Bianciardini e anche le altre pubblicazioni che la casa editrice continua a fare, però con uno stile diverso. Ha chiuso la casa editrice, si è rifondata come associazione, si chiama Strade Bianche, le strade bianche di stampa alternativa, richiama un po' alle strade bianche dei partigiani, alle strade dei sentieri di campagna, quelle meno battute, eccetera. Il sito è stradebianchelibri.com. Su quel sito si possono trovare tutti i vecchi e nuovi mille lire, tutti i Bianciardini, tutte le altre pubblicazioni della casa editrice, che continua fra l'altro a pubblicare libri, dicevo, senza cedere in alcun modo al mercato editoriale. Infatti non si appoggia alla distribuzione, può essere chiesto da parte di librai o distributori di ricevere questi libri, ma non c'è un accordo già dato, non c'è più il copyright, non c'è più il codice ISBN. Il prezzo che viene messo in copertina è assolutamente simbolico, con l'idea che sia il lettore a decidere il valore e quindi il prezzo di un'opera che sta comprando. Ci sono dei consigli di prezzo, ma insomma non è vincolante tutto questo. A Pitigliano c'è, dicevo, anche questa libreria in cui vengono organizzate anche mostre, esposizioni, alcune hanno a che fare con la storia della casa editrice, altre sono di pittori o scultori. Per tutto questo, ripeto, il sito stradebianchelibri.com, su quello si possono trovare tutte quante le mille lire fino ad ora rilasciate in modo pubblico, un sacco di informazioni anche sulla casa editrice, i prossimi eventi, il prossimo festival. Il tempo a mia disposizione qua sta avviandosi a finire, ma prima io vi lascio con un'ultima lettura e mezzo, perché la prima dura un minuto soltanto. E poi una canzone che ormai ce l'ho pronta qui, l'avrei voluta mettere a metà, ma sto andando davvero troppo lungo, quindi gli ultimi 7-8 minuti mia compagnia, sigla, vi saluto già adesso e subito dopo di me la bellissima trasmissione della Fuga del Gatto, la musica classica di Pink. Alle 19 invece stasera ci sarà la diretta quotidiana, un sacco di argomenti di attualità e di approfondimento, sentiremo anche un po' di teatro alla radio e rimanete quindi su Radio Wombat, non c'è decisamente niente di meglio da fare. Ci risentiamo domenica prossima con una nuova puntata di Poi You Hit Lettere Contrarie, sveleremo anche il misterioso segreto di questo nome, chiacchiereremo assieme. Questa puntata si potrà riascoltare in podcast come tutte le altre. Lunga vita a Robin Hood, abbasso il video principe Giovanni. Rich old man, you know he'd call a dead ringer. You got the same command, plus your mother was a chancellor. Ciao, sono Alessandra, grande fan delle mille lire. Buona lettura a tutti. Epicuro, lettera sulla felicità. Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora il momento di essere felice o che ormai è passata l'età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che da noi ci dedichiamo a conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato e da giovani irrobustiti in essa per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla. Pratica e medita le cose che ti ho sempre raccomandato, sono fondamentali per una vita felice. In un momento di ricordare il grande valore dell'arte e della cultura, leggerò questo piccolo libro che è una biografia di Caetano Veloso, letto da Natalia Bavar. Una biografia contromano, Caetano Veloso. In questo momento in cui la classe, la comunità, la categoria dello spettacolo, della musica, dell'arte è così in crisi, Tra le varie letture dei librini da 1.000 lire che ho a casa, ho scelto questo di Caetano Veloso. Banale ma necessaria la sua prefazione. Psicologicamente, esteticamente, intellettualmente e personalmente, la mia formazione musicale dipende dalla canzone Chega de Saudade, dalla Bossa Nova, da João Gilberto, da Antonio Carlos Jobim e Carlos Lira. E non credo di essere il solo. La canzone popolare contribuisce all'educazione delle persone, anche se la sua funzione naturale è quella di divertire. Le canzoni nascono per essere attraenti, gradevoli ad ascoltare, si rivolgono a un grande numero di persone, ma nel provocare interesse, divertire, intrattenere come sottoprodotto culturale, però, finiscono per partecipare anche alla definizione delle persone come individualità, gruppo e società. Si tratta quindi di un ruolo decisamente consistente, anche se in una forma che ha meno esigenze intellettuali rispetto alle manifestazioni estetiche. Per quanto mi riguarda, però, non sento il desiderio di influenzare molta gente. C'è chi è contento di poterlo fare. Per me, invece, non è giusto. La mia musica viene da quello che mi circonda, da quello che osservo e sento. Il mio materiale è la banalità quotidiana, anche se non penso che il risultato del mio lavoro sia banale. E in ogni caso, la dimensione del banale è assolutamente necessaria nelle cose che faccio. È un qualcosa che ho bisogno di digerire, di rendere esplicito e che voglio anche pensare. E nel momento in cui c'è tanto bisogno di una rivendicazione di quello che l'arte porta, il secondo capitolo è Tropicalisti al potere. La fantasia al potere, diceva un vecchio slogan del 68, ma da allora la fantasia non è mai riuscita a mettere le mani sulle leve del comando. Forse il primo esempio del genere è quello che offre il Brasile di oggi, questo libro è di qualche anno fa, dove la cultura è stata affidata a un signore che fa musica da 40 anni, che ha i capelli rasta, suona la chitarra come un dio, ha scritto canzoni bellissime, ha animato la vita musicale e culturale dando corpo ai sogni di ribellione di generazioni, Gilberto Gil. Ha giocato d'azzardo il presidente Lula, ma il paese sta reagendo bene al sogno di trasformare il Brasile in una nazione forte, orgogliosa, capace di dare al mondo una lezione, quella della fantasia. Intanto l'arrivo di Gilberto Gil al Planalto, il palazzo del governo di Brasilia, disegnato dall'architetto Oscar Niemeyer, un rivoluzionario che non ha mai dimenticato di essere comunista, fa correre il pensiero al suo rapporto di fratellanza umana, ideale e artistica, con un altro protagonista del Brasile musicale, Caetano Veloso. Hanno diviso la vita, la musica, i sogni, la cella, l'esilio, la famiglia. Sono stati cognati dopo aver sposato due sorelle. Si sono anche divisi politicamente. Gil è un sostenitore di Lula di antica data. Veloso è stato al fianco di Fernando Henrique Cardoso, l'ex presidente. Ora si sono ritrovati anche politicamente e non poteva essere altrimenti. La vita politica di Lula, ex sindacalista massimalista, maturata attraverso 3 sconfitte elettorali e una lunga opposizione, è quanto di più vicino idealmente ci possa essere al tropicalismo, il movimento lanciato sul finire degli anni 70 da Gil e Caetano, e che costò loro l'arresto e l'esilio decretato dai militari del potere durante la dittatura. Il tropicalismo, Caetano preferisce chiamarlo Tropicalia, come il titolo di un suo celebre disco, era una dichiarazione forte, orgogliosa, di autorivendicazione. Una chiamata al paese per alzare lo sguardo, ritrovare le proprie radici, uscendo dall'isolamento culturale. In fondo è quello che propone Lula in politica, una ricetta basata sulle risorse del paese e del suo carattere forte, colorato, esuberante. Non poteva non scegliere Gil come ministro, il nuovo presidente Lula da Silva. E con lui, in fondo, ha un po' scelto anche Caetano. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy D-Mike. See, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Yeah. Direi che è il modo più bello per viaggiare.